la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Sono le 16:30, primi 21 secondi. In diretta a Milano vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, Oscar Giannino. E naturalmente parte da la cronaca in questa mezz'ora ci sta rinviando da Londra la notizia di un avvenimento i cui contorni è ancora prematuro per poter definire, cioè se si tratti di un autore, uno o più fuori di testa, o se si tratti di un attentato terroristico. Immagino molti di voi abbiano avuto l'occasione, se sono di fronte a uno schermo televisivo o a un computer, di conoscere, venire a conoscenza di quanto dalle 4:20 più o meno è avvenuto su Westminster Bridge, che poi porta sempre dritto al Big Ben e a Whitehall, cioè alla sede della Camera britannica. Un SUV ha travolto o comunque investito sul ponte, su Westminster Bridge, almeno 12 persone che sono ferite e di cui due, secondo i primi resoconti, in termini più gravi degli altri. E dopodiché svoltando quindi a sinistra, il SUV, si vede dalle immagini che le televisioni stanno trasmettendo, quelle che fanno informazione online, si è infranto contro uno dei cancelli del Parlamento. Allo stato attuale, secondo i primi resoconti e notizie della polizia cittadina di Scotland Yard, almeno un occupante del veicolo, non sappiamo se ce ne fosse più di uno, ma almeno uno all'interno del perimetro, quindi del Parlamento, avrebbe accoltellato almeno un membro della polizia, e a quel punto sarebbe avvenuto un conflitto a fuoco con altri poliziotti che avrebbero usato le armi per eliminarlo. Le prime dichiarazioni di membri del Parlamento che sono stati immediatamente invitati erano in aula a stendersi per terra mentre il primo ministro britannico Theresa May veniva messa in sicurezza ed evacuata. Parlano di almeno 3 o 4 colpi di arma da fuoco. Questo è più o meno tutto quello che sappiamo fino a questo momento. L'uomo che è stato eliminato dalla polizia, appunto, e aveva usato un coltello, quindi era armato con un coltello, non si sa allo stato attuale se avesse con sé altre armi, se sul veicolo infrantosi contro la cancellata ci fossero esplosivi o armi. Per questo quindi la più che giustificata prudenza porta le fonti ufficiali della polizia britannica a dire: non conosciamo ancora la matrice e le circostanze precise che hanno indotto, neanche l'identità è nota di chi è stato eliminato dalla reazione delle forze di polizia dentro il perimetro del Parlamento, ma non siamo in grado di dire se è un attentato o meno. Naturalmente i colleghi della testata Giornale Radio sono pronti per darci tutte le informazioni nuove che dovessero emergere per gli sviluppi, con breaking news o meno. Io stesso con l'occhio sinistro guarderò il Telegraph e le altre testate per vedere se esce qualcosa di nuovo. Allo stato attuale l'unica vittima sarebbe il responsabile della, per come la vogliamo definire, investimenti di massa che ha fatto sul ponte, che però testimoniano una chiara volontà di produrre vittime con un meccanismo che ci fa ricordare purtroppo tragicamente quello che avvenne a Nizza. E per il resto speriamo di capire rapidamente che cosa è avvenuto. Non era questo ovviamente l'argomento della trasmissione. Vado subito invece ad annunciarvelo, chiedendovi di darci, se volete, anche la vostra opinione chiamando l'800240024. Ci occupiamo del caso che è esploso questa mattina in mezza Europa, in tutta Europa, e cioè le reazioni alle dichiarazioni che sono state estrapolate, isolate all'interno di una intervista che il presidente dell'Eurogruppo, cioè il coordinatore all'interno dell'Ecofin dei ministri dell'economia e delle finanze dei paesi dell'euroarea, ha rilasciato l'altro ieri, il 20 di marzo, alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, quindi il più prestigioso, autorevole, diciamo così, quotidiano tedesco. Per chi avesse visto i giornali stamane, il Corriere della Sera era il giornale che più dava evidenza, con un titolo a tutta pagina. Il titolo a tutta pagina recitava: Jeroen Dijsselbloem, e questo il nome del politico olandese, un socialdemocratico olandese che in questi anni presiede l'Ecofin e ha fama meritata di essere rigoroso nei confronti del confinamento di deficit e debito dei paesi dell'euroarea più inadempienti. E il titolo era: Dijsselbloem, ma i paesi del sud Europa spendono e spandono in alcol e donne. Ecco, in alcol e donne. E immediate, nel giro di due ore, a metà mattinata, reazioni molto pesanti nei confronti di Dijsselbloem. Matteo Renzi ha scritto immediatamente che, vi leggo, il presidente dell'Eurogruppo ha perso un'ottima occasione per tacere. In un'intervista a un quotidiano tedesco si è lasciato andare a battute stupide, non trovo termine migliore, contro i paesi del sud Europa, a cominciare dall'Italia e dalla Spagna. Penso che gente come Dijsselbloem, che pure appartiene al Partito Socialista Europeo, anche se forse non se ne è accorto, non meriti di occupare il ruolo che occupa, e prima si dimette meglio è per lui, ma anche per la credibilità delle istituzioni europee. Lo ha scritto su Facebook Matteo Renzi, facendo riferimento a queste parole: i paesi del sud Europa spendono tutti i soldi per alcol e donne e poi chiedono aiuto. Nel frattempo si moltiplicavano anche reazioni di altre figure politiche europee. L'eurodeputato verde spagnolo Ernst Urtasun ha detto: Dijsselbloem ha fatto delle considerazioni deplorevoli, forse a voi fa ridere ma non credo che sia una frase comica. L'appartenente al Partito Popolare Europeo Gabriel Mato lo ha attaccato dicendo: ha perso la sua neutralità e credibilità. Il ministro spagnolo dell'economia Luis de Guindos ha detto: penso che sia un commento infelice sia nella forma e nella sostanza. E il parole durissime sono venute anche da parte di componenti del governo del Portogallo, e queste quindi le reazioni. Io vi chiedo di esprimerci la vostra opinione, ma prima di dirvi la mia e di presentarvi l'ospite, vi devo fare una premessa. Ha veramente detto questo Dijsselbloem? Cioè, ha detto che i paesi sudeuropei, in particolare, come dice Renzi, l'Italia e la Spagna, spendono tutto in alcol le donne? Punto interrogativo. La cosa migliore che deve fare un giornalista è andare a vedere il testo originale e la fonte. Allora, nel frattempo, Scotland Yard ci informa, battono le agenzie, questa è un'ansa, che da quello che si è preso fino a questo momento si può sciogliere la riserva. Sì, l'attacco di Londra è terrorismo, dice Scotland Yard. Torno, vedremo di, naturalmente vi terremo informati su tutto quello che esce nelle agenzie nel frattempo. Ha veramente detto Dijsselbloem quello che dal titolo del Corriere della Sera si deduceva, e che Matteo Renzi, come le reazioni di tutti gli altri politici europei, ve ne ho citati solo alcuni, ma insomma avete sentito la più dura, quella che chiede esplicitamente le dimissioni dell'ex presidente del Consiglio italiano, ha detto davvero questo? Se uno prende il testo dell'intervista di Dijsselbloem alla FAZ, alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, ebbene no. Perdonate, io vi leggo testualmente la traduzione precisa, mi viene da un collega tedesco, quindi non l'ho fatta io. Del testo dell'intervista, a un certo punto si parla del patto di stabilità e Dijsselbloem, virgolettato, dice: anch'io ritengo che il patto sia estremamente importante. Perché? Gli chiede l'intervistatore tedesco. La risposta del presidente dell'Ecofin è questa, virgolette: da un lato, col patto di stabilità ci rendiamo calcolabili verso l'esterno, se lo applichiamo in modo conseguente. Dall'altro lato, quel patto crea fiducia all'interno della zona euro. Nella crisi dell'euro, i paesi del nord, nella zona dell'euro, si sono mostrati solidali con i paesi in crisi. Poi aggiunge: come socialdemocratico ritengo che la solidarietà sia molto importante, ma chi la chiede ha anche dei doveri. E qui viene la frase. Io, dice Dijsselbloem, parlando di sé, io non posso spendere tutti i miei soldi per liquori e donne e poi chiedere aiuto a lei. Questo principio vale sul livello personale, cioè per lui sta facendo un paragone, parlando di sé, sul livello personale, locale, nazionale e anche a livello europeo. Allora, Dijsselbloem non cita Italia, Spagna, paesi del sud Europa. Fa un paragone applicandolo a sé. Io, e qui viene il mio giudizio, ritengo che sia comunque un autogol clamoroso, sia pure sottolineando che il titolo Corriere della Sera, secondo me, non era corretto, e mi chiedo se davvero Matteo Renzi si sia posto il problema di controllare il testo originale. Ritengo che nessuno avrebbe avuto niente da dire se Dijsselbloem avesse usato una frase diversa, cioè invece che dire io non posso spendere tutti i miei soldi per liquori e donne avesse per esempio detto io non posso spendere tutti i miei soldi perché voglio una casa più grande, una casa più bella, un'auto più potente e poi chiedere aiuto a lei. Penso che a quel punto nessuno avrebbe avuto niente da dire. Invece, usando i liquori e le donne, ovviamente indica dei comportamenti eticamente censurabili, cioè finisce per slittare su un pregiudizio etico-antropologico, e a quel punto da una parte i giornali dicono che sta parlando del Sud Europa, che invece erano citato prima a proposito della solidarietà che lui difende come socialdemocratico, non la sta criticando, cioè non è Schäuble, voglio dire, non è il presidente della Bundesbank che spesso ha obiettato, no, lui la difende verso il Sud Europa. Poi dice accanto ai diritti ci sono i doveri, però usando a se stesso, per esempio, che fa l'argomento dei liquori delle donne, e beh, sembra evocare il pregiudizio etico-antropologico verso i latini, che poi, della verità, di liquori ne consumano meno di quelli del nord Europa. Allora, questo è il chiarimento. Io lo considero un autogol, perché io in realtà sono un rigorista, come Dijsselbloem, e credo che l'effetto di questa frase, sia pur secondo me non correttamente riportata, è stata quella di regalare su un piatto d'argento l'occasione per reagire ai politici del tasso e spendi. Questa però è la mia opinione personale. Nel frattempo vi dico che la reazione non è mica solo stata di Renzi nella scena politica italiana, perché per esempio Salvini che cosa ha detto? Anche qui leggo il virgolettato. Dice: Dijsselbloem va curato da un medico molto bravo e gliene posso consigliare qualcuno. È un tizio pericoloso che rappresenta una Unione Europea pericolosa. Prima si cambia, meglio è. Allora, per capire bene se l'interpretazione del testo della FAZ è stata corretta e come vivono loro, i giornalisti del giornale a cui è stata data l'intervista, quello che sta succedendo in queste ore in Europa intorno alla casa di Salone, abbiamo il nostro amico Tobias Piller, che appunto è corrispondente qui in Italia da anni ed è ospite frequentissimo nostro della Frankfurter Allgemeine. Buon pomeriggio Tobias e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio. Allora, qual è la tua opinione su ciò che ha detto davvero, come risulta da quello, dal testo che ho letto e che del resto mi hai mandato tu, rispetto alle reazioni politiche in corso in Europa? Vabbè, la mia idea è che certamente è un segnale di incomprensione in Europa e davvero non ha detto quello che gli viene attribuito, perché lui ha parlato nella forma il io. Così ha detto, si vede anche chiaramente che in questa risposta dell'intervista, così l'intervistatore che ha scritto, il mio collega, un collega molto serio, molto caro a noi, che ha fatto questa intervista, ha tagliato fuori una sua domanda e ha cercato così di accorciare la cosa, saltando la domanda sul responsabile sul pensiero socialdemocratico in tutto quello. E il Dijsselbloem poi parla semplicemente della relazione tra solidarietà e responsabilità della singola persona, e la singola persona è lui stesso. Parla dell'alcol e delle donne per lui stesso, parla nella forma dell'io. Io non posso così tutti i soldi in questo modo e poi chiedere a lei, così l'intervistatore, dell'aiuto. Questo è il punto che ha fatto. Poi, dopodiché, mi ha anche un pochino divertito, perché per 2 giorni niente, poi ANSA alle ore 20 e 24 esatto. di ieri ha scritto non puoi, nella forma del tu, non puoi spendere tutti i soldi per alcol e donne e poi chiedere aiuto. È diventato oggi, un sì impersonale. Ha cambiato ancora versione, ha copiato la versione del Corriere della Sera. Ecco, cari ascoltatori, siamo passati da un io a un sì impersonale nel primo lancio a un titolo che diceva i paesi sudeuropei spendono in alcol e donne. Allora, ognuno può avere un'idea, io vedo che molti di voi che mandano gli sms dicono tanto questo voleva dire. Il problema è che però non l'ha detto così e questo è irrefragabile, cioè le reazioni, almeno in Italia, partono su una versione di questa frase che non è riferibile alla frase in cui cita i paesi sudeuropei come, a proposito del fatto che c'è una solidarietà che lui difende, dice esplicitamente così. Allora, è ovvio che oramai che cosa ci racconta questa storia, e su questo torniamo dopo l'interruzione sul traffico, ci racconta del fatto che oramai la politica in Europa non è capace di convergere più su niente, perché le divergenze di impostazione sfruttano qualunque occasione, sono pronti anche alla manipolazione dei testi, ma perché quello che conta, visto che oggi sono iniziate le cerimonie ufficiali in Italia, in Parlamento, con Mattarella del 60° anniversario del Trattato di Roma che pose la prima pietra alla Comunità Economica Europea e i cui sviluppi poi ci hanno portato all'Unione Europea, a Schengen, all'euro e così via, ma nella realtà dimostrano che, come si vede, la convergenza non c'è, perché è pronta a polemiche in cui il carattere nazionale, la sfera nazionale si sente offesa e dà per scontato che questo possa essere davvero quello che pensa il presidente dell'Europa, appunto tale che dice te ne vai perché ci ha insultato, ci hai mancato di rispetto, che, come dire, mancano i presupposti fondamentali, secondo me, per intendersi e stare insieme. Non c'entra la divergenza politica, La storia dell'Europa è stata fatta da uomini politici movimenti e forze politiche che stavano all'opposizione rispetto a chi governava e così via, mica è la storia di una parte politica che ha vinto. Torniamo tra un minuto, traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta alle 16.48. Nel frattempo non emergono altri particolari significativi da Londra. Abbiamo saputo la Scotland Yard che è terrorismo. L'unica vittima per il momento resta colui che è stato abbattuto a colpi d'arma da fuoco dalla polizia dopo aver tentato di accoltellare un poliziotto di cui non abbiamo notizie, sulla cui vita non abbiamo notizie. Resta indicato approssimativamente in 12 il numero dei feriti sul Westminster Bridge, di cui 2 in condizioni più gravi. Dalla fotografia del SUV che vedete sulla cancellata esterna del Parlamento potete notare anche che non sembra che sia stato diretto con chissà quale velocità, visto che non appare, sia pur con la posizione del veicolo, dalle fotografie che non consente di apprezzarne bene il frontale, significativamente danneggiato dall'impatto. E per il resto le agenzie più aggiornate parlano, ve lo leggo, di un uomo dai tratti asiatici, un quarantenne. Così i testimoni avrebbero descritto l'aggressore che ha tentato appunto di fare irruzione con un coltello nel Parlamento di Londra. Questa, la fonte di questo, sono testimonianze raccolte da Sky News. Allora, abbiamo con noi intanto Tobias Piller, e abbiamo chiarito che l'intervista a cui sta reagendo mezza Europa è una reazione durissima, soprattutto da parte portoghese, e Matteo Renzi, che ha chiesto immediatamente le dimissioni di Jeroen Dijsselbloem, il presidente dell'Eurogruppo, in realtà è relativa a un testo e a delle parole che il presidente dell'Eurogruppo non ha pronunciato. Però non è proprio un buon segno in vista del vertice europeo di Roma, o no, Tobias Piller? Per niente, si vede che tutto fa brodo, come si dice a Napoli, tutto va bene come pretesto per polemiche contro l'Europa e contro i partner, così manca sempre di più un terreno comune. Perché se vogliamo in quel senso un'intesa in Europa, c'è anche bisogno di capire anche come sono fatti gli altri. Certamente i propri olandesi hanno un senso di moralità, ma soprattutto verso se stessi. E certamente poi quando fanno delle critiche, si arriva subito e dicono: ma questo vostro moralismo. Vabbè, ci sono in quel senso delle regole oggettive che ci si è dato tutti insieme, allora certamente ognuno si può parlare, ma se poi andiamo su un altro livello di dibattiti su moralismo, su questioni anche di donne, alcol e così coffee shop, come scrive Corriere della Sera, certamente si va molto oltre e nella direzione sbagliata. Uno potrebbe anche dire: ma come funziona una mente olandese? Viceversa, agli italiani o a chi, incluso me, che stanno a Roma, ci piacerebbe essere presi o malintesi così al nord? Io penso di no. No, direi di no. Io devo dire che ho apprezzato molto oggi nella sera di Prodi, che era presente alla cerimonia oggi con Mattarella in Parlamento. La Lega era assente stamattina, ci ha tenuto Salvini a sottolinearlo, l'unico presente era Bossi, Prodi ha avuto una battuta ironica che secondo me... Allora, io l'ho preferita quella di Renzi, Lancia il Resto, perché Prodi ha detto: ma ho colto un certo punto di invidia nelle parole di Dijsselbloem. Naturalmente era del tutto ironica, però stemperava, per così dire. E chissà, secondo me Prodi aveva anche fatto il controllo del testo reale. Per il momento, cari ascoltatori, vi certifico che a fronte di due sms che mi danno appartamento dello Shusha dei tedeschi, e uno che dice anche naturalmente che verrò ricordato quando verrà emesso un editto nei confronti dei traditori della patria, testualmente, ma io so che queste sono le parole che riecheggiano un certo professore universitario che promette cappottini di abete quando vinceranno le elezioni coloro che la pensano come lui, a chi invece vuole rigore di finanza pubblica. Però tranne questi due mi sorprende e mi colpisce, ve ne rendo atto, che molti di voi stanno dicendo: sì, le parole saranno infelici, ma la realtà è che c'ha pure un po' ragione. Alcuni osservano: ma come i politici italiani possono dire l'uno dell'altro le cose peggiori sul fatto che si spreca denaro pubblico, rubano i bonus? Lo dicono quelli del PD contro lo stesso Renzi, che così ha fatto, quelli che sono usciti, eccetera, eccetera. Poi se ce lo dice qualcun altro non va bene. Allora, prendo atto che comunque le reazioni sono a più ampio spettro di quello che mi aspettavo, perché io mi aspettavo una reazione secca del tipo: l'olandese vada a casa, per così dire. Quello che mi sorprende però, cari ascoltatori, è che sia così facile, anche per, mi dispiace dirlo, anche per l'ANSA, invece che produrre una traduzione testuale, passare dall'io alla forma impersonale, e poi sul Corriere diventa quel titolo. Questo mi dispiace molto, perché io penso che comunque la pensino i miei colleghi, dovrebbero sapere quali sono le tensioni europee e le legittime differenze d'opinioni. C'è gente che il fiscal compact non lo vuole più, spera che l'anno prossimo, quando ci sarà la revisione, vada via. C'è chi è convinto davvero che l'euro sia una gabbia da cui uscire, e quindi bisogna sapere, no, che a questo punto le parole di chiunque, chi è a favore di difendere l'Europa, chi è contro, vanno rispettate per quelle che sono davvero, per come sono state emesse. Perché se ci mettiamo a interpretare quelle di ciascuno, veniamo meno, secondo la mia modestissima opinione, al nostro elementare dovere. Siccome siamo un filtro tra ciò che i politici, i personaggi pubblici, qualunque tipo di attività svolgano, e gli ascoltatori, i lettori, siamo noi come filtro. Questo filtro si giustifica se non interviene in alcun modo, il meno possibile, nel manipolare. È ovvio che quando si scrive un'intervista si esercita anche con la mano e con la testa, non si ripete tutto testualmente fino all'ultima parola, ma qui passare dall'io al sì impersonale, al dire i paesi del sud Europa, questa non è un'interpretazione di libertà di un giornalista che non distorce, questa è distorsione di ciò che voleva dire, per di più un socialdemocratico che difendeva la solidarietà dovuta ai paesi più deboli. Questa è la mia opinione, grazie a Tobias Piller. Continuate su Radio 24, appuntamento con me e Alessandro Mina domani mattina alle 8:20, attenti noi due.